Capo pattuglia chiama Corvo. Capo pattuglia chiama Corvo. Messaggio in codice. La zirighetta Badaro Walter. Ripeto, la zirighetta Badaro Walter. E non può se mannano. Vicino al mare. Chi sei, Eugenio? Mario. Sì, ci siamo già sentiti. No, Claudio. Mario? No, stavo provando solo delle cose che non capisco, dei giorni che ero a 1.02 e oggi è 1.05. Non è variato nulla, l'antenna è sempre lì e non capisco. E quello lì è un rientro, eh. È un rientro, dovresti fare un choc. Un choc. Allora prendi un pezzo di tubo di scarico, quelli arancioni, e da precisamente da 80 di diametro, fai 20 sbire di RG58 e lo piatti dietro l'apparato, quello lì è nel gioco. No, vuol fatto, prendi due, compri due piele femmine da pannello, sai, che ci sono, e colleghi una a un capo e una all'altro, e interpone tra apparato e linea di antenna, ti blocca tutte le RF di ritorno, no, immediatamente dietro l'apparato, cioè questo è un fai da te, e poi ci sono quei filtri che sono già per rientro RF, che sono piccolini, insomma, non costano neanche tanto, eh. Però se uno si vuol divertire a farlo è facile. Sì, esatto, ce li hanno quasi tutti gli store online, ce li hanno, e in pratica si blocca i rientri di RF che si caricano in antenna. Guarda che lo fa anche il vento, eh. Un paio di giorni di vento l'antenna si carica, appunto, però molte volte non basta, ci vuole o c'hai una buona massa a terra, cioè la massa a terra risolvi, ecco, con la massa a terra, una buona massa a terra risolvi, infatti, ma guarda che probabilmente il condominio c'era, l'impianto è stato fatto con la massa. Dovresti un po' controllare, vedere. Ho capito. Comunque nel caso nostro sarebbe d'obbligo una buona massa. Uno, ti toglie molte interferenze, rumori vari, eccetera. Due, ti migliora l'irradiamento dell'antenna, perché lo migliora la massa. Anche se molte sono cortocircuitate, non sono isolate, però la massa ci vuole sempre, ci vuole proprio per forza, ci vuole. Sì, sono delle prove che ho fatto anch'io, e l'ideale sarebbe antenne in vetroresina. Antenne in vetroresina riceve meno QRM, l'ho provato, L'ho tolta perché qui di fronte al mare si batteva in due e quasi andava a rompersi, però era molto silenziosa, ma molto, molto, molto. 5 ottavi, la Gainmaster è 5 ottavi, esatto, ma è un... È una buona antenna, ce l'hanno molti, tassare dintorni, ce l'hanno molti. Io l'ho tolta perché qui toccava parecchio e sembrava che si dovesse rompere. Poi, quando poi me ne sono disfatto, non avevo letto sul deplianti che bisognava mettere dei piccoli tiranti a metà antenna. Non l'avevo letto, però ormai l'avevo già fatta fuori. andiamo, andiamo, che è? Bisognerebbe provare. Le cosiddette Rybakov, Rybakov si chiama. E in alcuni casi vanno anche bene, se sono fatte, se la bobina è fatta bene, vanno anche bene. Ce n'è qualcuna qua in giro che c'è un tipo che le fa, statele, che è anche abbastanza bravo, e vanno bene. Ciao Giulio. Ciao Luca, ciao Mario, buonasera, ciao Claudio, buonasera, Giulio da Sassari, è entrato anche Luca in questo momento, avanti Mario. Ciao, buona serata, Mario Prototorre, no, io non sono spostato, io sono perfettamente in isonda, perfetta. Probabilmente sei tu che sei un po' spostato, perché il mio frequenzimetro mi dice esattamente 27.075. Ma l'altro che era di giro vulcano? E certo non lo sento, l'ho anche salutato poc'anzi, non so se lui mi ha ascoltato, ma suppongo di sì. Santiago 7 per te e Santiago 9 più 5 per Claudio. Ciao Claudio, avanti Giulio da Sassari. Ciao Giulio, non ti ho sentito perché ci avevo... Un attimo che mi chiami. Abbastanza chiuso per il QRM. Adesso l'ho abbassato e adesso ti sento bene. Ok, scusa un attimo, c'è qualcuno che mi chiama. Allora chi è che chiama Giulio? Ciao Nicola, ben ascoltato. Probabilmente non ti ascolta, no? Perché sono gli amici di Porto Torres in ruota, per cui non ti ascolta, anzi sono più che certo che non ti ascoltano. Avanti Mario, è entrato anche Nicola, la sesta, ma sicuramente non l'ascoltate. Avanti Mario. No, se è trattato diverso il discorso, allora il mio microfono è troppo alto, scusa un attimo che lo abbasso, ecco qua, adesso l'ho abbassato un tantino, e probabilmente era quello che tu notavi, vai Mario ancora, ok Mario, adesso ho migliorato sicuramente, perché ecco qua, ho rimediato un pochino a tutto, sia alla radio che alla potenza. Adesso suppongo che mi ascolti bene anche nel radio, vai perché ho abbassato, ok, succede che quando sfondo col pennello i potenziometri si girano e per cui era per quello che c'era troppa radio, troppo volume del martigin. Avanti Claudio. Sì Giulio, ma non hai la solita modulazione, eh? Oggi sei un pochettino distorta, appena. Di solito esci molto meglio. Prova a regolare ancora un po' perché non hai la solita modulazione. Ecco qua, ho abbassato ancora il Mikey Gin, così dovrebbe essere al 100%, dai, su, confermi? No, non ha migliorato molto. Ma non aspetta, eh? Qua. Adesso dovrebbe andare bene così, avanti, vediamo un po' se sono riuscito ad azzeccare perfettamente il suo punto giusto, vai. È metallica, Giulio, è metallica un po', sembra che parli dentro un, non lo so, un barattolo, roba del genere, e si capisce benissimo, va bene, però è un po' metallica. Vediamo un po', mi ascolti Claudio, la Porto Torres? Non ce l'ho, mi sente. No, non ti ha sentito. Claudio, ti ha chiamato Luca. Sì, è metallica la mia voce. Io ho solo toni, non ne possiedo bassi nella voce. Ho solo toni alti, per cui sarà per quello. Adesso mi sono anche allontanato un pochino dal microfono. Per cui, dimmi se hai ascoltato Luca. Avanti Claudio. No, non l'ho sentito. E qua arriva segnale 3, Giulio, là. Lo sento, un po' bassino ma lo sento. Ok Luca, sì, già hai sentito cosa ha detto, che non, a te non ti ascolta. Comunque Claudio, Luca mi stava dicendo che tu arrivi a Sassari di Santiago 3, da me arrivi 9 più 5, però lui ovviamente è in un'altra posizione e allora ti senti ancora più basso. Bene, bene. Avanti Mario. No, non è cortosa assolutamente. Si può, ne è abbozzabilissima. Solo che bisogna vedere se la puoi mettere tu, è lunghezza, eh. Ok Mario, sì, 6 metri e 97 metri l'antenna 5 ottavi, è quella la lunghezza, per cui sì, c'è un amico qui a Sassari che ricostruisce, per cui va bene. Io ad esempio sto utilizzando adesso la Game Master, la mia però è originale, è quella originale, non è autocostruita, dunque devo dire che mi va bene, io sono soddisfatto. Prima avevo montato la Mantova Turbo, avevo montato e ce l'ho sempre, devo dire nuova, però l'avevo smontata perché la notte quando soffiava vento i radiali fischiavano, per cui durante la notte io li sentivo e mi dava fastidio. Allora l'ho tirata giù e ho messo la Game Master. Avanti ancora te Mario. Sì, riprendo, mi devo assentare un 5 minuti, riprendo subito, vai Giulio. Ok Claudio, d'accordo, siamo qua. Sì, no, ripeto, io l'ho avevo sostituita solo esclusivamente per quel motivo lì, per il fatto del rumore durante la notte che mi dava fastidio, i radiali che mi sentivo fischiare quando c'era vento forte, chiaramente. Però come antenna andava a meraviglia, perché era forse l'unica, una delle migliori in assoluto, perché la Sigma era quella, no? La Mantova Turbo era la Sigma, per cui è una ditta che ha costruito sempre molto molto bene le antenne, e devo dire che tutte le Mantova sono andate tutte bene, veramente. Io appunto l'avevo acquistata qualche anno fa, costa anche quella, perché costa 145 euro, quella l'avevo pagata, mentre invece la Game Master costa 160 più trasporto, intorno al 10 euro, per cui intorno ai 170 totale. Però vedendola la Game Master, quei soldi non se li merita, perché sono truppi, perché in definitiva è una bobina, c'è un ciocche alla base e poi c'è alcuni metri di cavo coassiale e il terminale con cavo di filo elettrico normalissimo, quello da impianti elettrici, unipolare tra l'altro, per cui vedendola così, però è il progetto che ti fanno pagare, ma comunque con prestazioni per me va bene, io sono soddisfatto. Fai ancora Mario. Claudio non è tornato, allora riprendo io, ti saluto e ti ringrazio per le 4 chiacchiere che abbiamo fatto, Mario, a risentirci presto, vai, attendi pure, se sei impegnato col telefono non c'è problema, io rimango in ascolto, vediamo se rientra Claudio, evidentemente ancora non era pronto per il rientro e vedrò casomai se rientra qualcuno qui da Sassari, poc'anzi c'era Luca, ma ripeto, Luca voi non lo sentite, per cui non ha potuto scambiare 4 chiacchiere con voi. Ok, ciao Mario, grazie ancora per la chiacchierata, alle prossime, ciao. Senz'altro ti saluterò Claudio appena che rientra. Ciao ancora Mario, grazie ancora, ciao. Luca, ci sei? Chi è che mi chiamava poc'anzi? Prova. Test. Prova. Thank you. scende, no, che... Avanti. Attenzione, canale 10, canale 10. Avanti, chi è? Rende forte, rende. sì, anche, ma anche in ricezione vende, anche in ricezione vende, vende tantissimo, molto molto molto bene, veramente segnali bassi, QRM poco, niente, niente QRM, o se c'è la propagazione sale poco lo smitter, proprio leggero leggero, non come, come la Mantova che è molto molto QRM fa. Ma comunque si stanno lamentando parecchi. Dicono che le antenne senza radiali sono meno, portano meno QRM. Io le raggio sempre a 1, 2, non di più. Sì, anch'io, anche io quando faccio la comparazione, perché ho due radio, no? Con una radio c'è attaccata la Mantova e il QRM è a Santiago 3, 4. Dove c'è attaccata la, la J-Pol, il QRM è quasi a 0, è a 1, 1 proprio... si muove appena appena lo smitter, capito? Capo, a me stasera ce l'ho a 2, ce l'ho, ma di solito è a 1 il QRM. Io non prendo tanto QRM, la verità ti dico. No, non me ne capita tanto questa, è sempre molto selettiva su quel fatto lì. Ah, già sono contento, anche se non è, però cavolo, me, già va bene. Anche se non è una grande antenna, però io mi trovo bene poi. Sì, Anto, arrivi da tutte le parti, non hai grandi problemi di antenne enormi, giganti, eccetera, eccetera. Hai un'ottima ricezione, un'ottima trasmissione, cosa vuoi di più? Va benissimo la grande. Ciao, pa. Non mi ricordo se anda a 5 metri questa. Già va bene, cosa mi importa? E alla grande andando tanto bella gente che è rimasta, per fare due chiacchiere ce n'è in abbondanza. Volevo mettere qualcosa di più, ma che cavolo non può fare la batteria di là? Se a me questa cosa mi va bene, ha resistito alla tormenta, al vento, ancora, ancora ancora ha resistito. Cosa mi ne ha putti? Ma infatti cos'è? Specchio abbasso appena, eccola qua. No, infatti ho già di una fucchiatura, cioè va bene così, cos'è? Cos'è, devi stare a, a crearti problemi, perché cosa? Per avere un decibel di segnale in più, ma lascia verde, e già detto arrivi fortissimo qua, veramente. È un segnalone, c'è gente più vicina di te che non mi arriva con quel segnale. Capa, voglio fare una prova, voglio fare. Attacca Gigetto, a vedere quanto aumenta. Voglio per curiosità, sto scaldando. Guarda, sì, 9, 18 con picchi a 9 più 20, giusto, giusto, giusto. Prova a attaccare, ti do il segnale perfetto col K, così ci abbiamo un riferimento di quanto aumenta. Bisogna aspettare un attimo che scaldi, perché ancora è freddo. Cappa, hai detto che cambia un attimino? Cambia, cambia, cambia, cambia. Il virus sta radio sempre bene varato. Cappa, mi senti? No, adesso è potenza normale. Potenza normale, sì, 9.15. Cappa, cappa, bisogna aspettare un attimino, non voglio... Voglio aspettare che scaldi un po'. Lascialo scaldare appena appena, ma se è a valvole, Antu, basta che lo accendi, già va bene. Cappa, cappa. Qua saranno circa 10 watt. Quanto hai, 10 watt? All'incirca, ne ha anche un po' di meno. E già va bene. Hola, chicos! 9.15 con picchi a 9.18, vai da 9.20 a 9.25. Davvero, gra? Adesso sta andando potenza, 9.25 anche tu. Picchi un bel me. Un bel, un bel, un bel, un bel. Aumenta un bel quel lineare. Stai vedendo, vai un segnale allucinante in occhio. Cappa, è ancora freddo me. Io sono lontano da te, sono lontano, io Sassari non lo vedo, ti ripeto, Sassari io non lo vedo, sono molto alto, ma Sassari non lo vedo. Cappa. Cappa. tizio già andaia. E a me mi vedi, Otra? No, neanche a te vedo, vedo il segnale, la mazza di Nervaria. Sì, anche Saturno, se Saturno un po'. Sì, c'è sempre questo apparato, che aspetta che ogni tanto lo urto. Infatti sei satiro. Sì, sono satiro. Ecco, adesso l'ho rimesso come sempre. Sei gracchiante del radio, anche tu lo senti gracchiante, Anto? Un pochettino lo sentivo gracchiante, adesso già va bene, già. Adesso è salito ancora di più, bra, Bombolina, bomboletta! Lui, Lugariello o Casarella? Cappa, Luca, fondo scala sono lì alla tua dolce. Eia, e me, Claudio! Cassa! Andiamo bene, andiamo. Esci a vedere Gianfranco. Prova Gianfranco, se la radio ha migliorato da me. Sì, adesso l'ho ritoccato ed è come sempre, quindi dovrebbe essere normale. O può darsi che senti anche il rumore di fondo, perché ho tante altre cose accese. No, adesso va bene, adesso sì, tu lo fai, io un po' gracchiante, forse l'avevi toccato. Gappa, gappa! No, ti volevo dire, Clama, è basso il segnale, perché quando lo tiro su mi dici, cioè adesso sono 3 watt. No, 9,20 sì, Gianfranco, non è basso il tuo segnale. Se aumenti la potenza vai quasi a 9,30, però ti porti via la radio. Ehi, Clama, fate molto vedere una cosa. Ehi, la vai da tu. Ehi, ti ho mandato una foto, ti ho mandato. Non ce l'ho qua al telefono, prima la guardo. Comunque in tuo momento non vai col lineare, altro ci aumenta. Lugariello, non sei uscito. Lugariello, non sei uscito. Papà, dai, io vado a mangiare, ma al limite ci sentiamo dopo, ok? Se vi fate sentire, due chiacchiere me le faccio, se no va a prendere quel posto. Che trova mai su anche la radio, bubu. Io poco fa ero buffendi, se non era nessuno. Ok dai, vado a mangiare, può darsi che io più tardi devo uscire. E quindi no, non ci sono. Ok dai, la mazza di Nervaria. Ruia. 9,25 cento. Appagà, però non posso accenderne. Ah, va bene, va bene. Che ti difendi bene. Appagà, vai, va a mangiare. Ciao, ciao, a dopo, vai a fare. Sì, ciao. Buon appetito, buona cena. Niente, ti devo dire una cosa, come sono io ti cazzo, vabbè, come hanno detto. Ehi qua, no, se mi dire qualcosa, no, non me lo devi dire qua. Gappa, Lugariello, Parigua. Tu la senti questa propagazione, Claudio? Sì, già la sento, bassa, ma già la sento. Molto selettiva questa antenna. Si attacca la mappa, va minimo in arriva a 4-5 qua, è 1. No, sono spagnoli. Oggi tocca a loro. No, non era niente di riservato, ti volevo dire. Niente di particolare. Via, gappa. Com'è il segnale? La radio buona anche da te? Sì, molto. Mi ricordi Claudio Sparviero. No, è proprio la tua. E tra l'altro è anche al punto giusto. Né troppa e né troppo poca. Il segnale qua non si vede con questa infriatura. Io ho capito perché tutti quanti stanno mettendo questi numeri piccoli e non si vede una mazza. Io devo usare con gli smitter analogici, devo usare gli occhiali, non c'entra affatto. I numeri del 430 non li vedo più, assolutamente. Quelli del 757 è un po' di più, perché lo smitter è forse un po' più grande, ma non lo so, sono più grandi i numeri. Ma quello del 430 non li vedo, mi devo mettere gli occhiali. La vecchiaia carogna. Comunque sei ampiamente oltre il 9, il che mi preso, guarda, dovrebbe essere un 9,15 o 9,20, ma più 9,20, perché questo è anche un po' strano, di quelli a LED, a sbarre, però i numeri arrivano al 9 e poi direttamente il fondo scala qua è 30. Sì, non è neanche 40, è 30, quindi... Sì, sì, è 30. Quindi figurati cosa può essere. Beh, andava bene. No, ci avevo... Mi ha tracciato il cane, deve essere, perché c'ho il cavo per terra nel giardino, deve essere giocando, è passato e ha tirato. E quindi ci avevo il piede mezzo sganciato, l'ho rifatto e risaldato tutto, adesso sta a posto. Adesso l'ho fascettato il cavo, domani se fa bella giornata ne faccio una traccia, le metto il corrugato e lo chiudo, capito, in modo che non stia sopra nella superficie dell'erba, se no lui giocando passa e lo aggancia di nuovo. Che cavo è qua? È la Camille, io ho la Camille, tutte e due antenne ho la Camille, ma rispetto ai 50 metri che avevo prima, mi sembra, dalla vera antenna alla vera radio saranno 6, 12, 12, 15, forse neanche 20 metri. Allora già va bene, perché io ho il mio che invece è messo i pauloni e quello si seppellisce direttamente, capito? Senza mettere la canala, perché purtroppo sappi che con la canala rimane sott'acqua il cavo, perché tra umidità e cose varie i tubi io li ho trovati sempre allagati. Infatti me l'hanno detto, ma quasi quasi già è bello di cotenna questo cavo, c'è una bella gomma, bella dura, poi ho il centrale bello rigido, quindi quasi quasi la faccio una traccetta col picco, tanto sono una traccetta di 6 metri neanche, e glielo copro con la terra, senza metterle niente, già va bene lo stesso. Beh sì, almeno di lì drena, mentre invece io ho la canala per ovvi motivi, perché ci passano tanti cavi, però di lì si forma questa condensa e quindi c'è sempre acqua. Il cavo, diciamo, sono cavi sì, ottimi anche per stare in acqua, però a lungo andare poi non si sa cosa succede, capito? Quindi ti conviene metterlo sottoterra, così almeno anche se si bagna poi si asciuga pure, ecco, perché la terra stessa se la assorbe l'acqua. Si conferma. Okay. Fatemi allontanare un attimino, che mi stanno chiamando dall'altra parte, se ci siete entro dopo, ok, Gianfra? Mi hai preceduto, anche io mi allontano per 5 minuti, poi tanto sono qua, tanto sto, come al solito, facendo anche altre cose. Ok, d'accordo. E cosa ti fa male? Cappa, ehi, minchia, un piano mi sono coperto i parenti. Ui. E come va? Se dici ma canta che canzone? La sera. Gappa, adesso hai staccato tutto. Dove? Sì, sono normale. Vabbè. Cappa, l'ho spento perché sono sceso giù, capito? Ehi, e si conferma, dice quello. Cappa. Che cose hanno? Se ce l'hai vogliono usati, ogni tot devono essere accesi, devono essere usati, se no sì, pure in occhi, la vedo cacciambare, i cose, non so se si trovano, ma ha detto di sì, le valvole. E sai qual è un tuo problema? A trovare già si trovano, io ne ho uno dentro l'armadio, lo stesso grosso, a 27, abbastanza faccia 4 valvole, però non li ho comprate perché non ne vale la pena, ne hanno chiesto 30 euro l'una, capito? 4x3, 12, 120 euro, cosa è gatto veniale, vale 150 euro, no, non fa. Però quando accendi o Giulia? Io ne ho 500 watt, di quelli vitaci, di quelli vecchi, fai quelle valvole apposta, ne dia 300, 350, ma anche 400, ma non ne vale la pena, anche perché tanti io non ne uso, io lo sai, uso questi tipi di radio. accendo il Galaxy c'ha 20 watt, cosa me ne affutti? Non sai quante lineari ho io, ne ho 4, ne ho 3 trasistorizzati, uno più grande dell'altro e uno valvolato, ma non ne uso, cosa? Sono finiti i tempi. Tu magari lo puoi tenere perché ti aiuti, sei in una zona un pochino più balorda e quindi ti aiuti, se magari entra qualcuno da fuori ti aiuti, ma io no, non me ne affrutti più nulla, tanto poi. È sicuro che quando attacco questo, se entrano da fuori mi sente, quello te lo posso assicurare. Sono qui che ti sente, alla grande ti sente, che problema c'è? Momello! bisogna utilizzarlo un po'. Ma ti occupo già chi si attende così assai, grandi chicci. Non dire che c'è una buona, quanto ne ha, una o due? Forse due, boh. Vuol dire che funziona bene. Già si vede che funziona bene. Oddio, ci vedi, alla grande ci vedi. Gappa, gappa. Però ti dico una cosa, sono migliori, sono queste valvole. Anto, oramai la valvola non serve più a me, oramai le valvole sono andate, no, non è più nessuno qua avanti. Oramai è tutto transistorizzato, no. Aspetta, ci metto la porta. Oramai è tutto transistorizzato, insomma, la valvola non è andata più nessuno. Eppure io dico che mi piace. Sì, beh, chi ce l'ha già lui, insomma, non è quello il problema, però per esempio noi radioamatori ormai siamo andati più o meno tutti sullo stato solido, ho capito, trasistorizzati buoni, l'MR Italy, quelli buoni, costosi, che danno un bel ratto, capito? Ciappa, e se tu che l'avevi voluto provare, chi dove, vabbè tu? Ma vi vuole alimentare lo sgruscio, io per alimentare quello c'ho un alimentatore da 120 ampere a 24 volt, quelli sono a 24 volt ancora. Vabbè, a biliardo. Lascia perdere. Guarda, io ho pagato solo l'alimentatore a 24 volt, quasi 200 euro. Già lo so, già. Ciappa. Già. E bombe di potenza avevo, magari chi ci conghisse un mamma delle turche. Ok, dai, io mi sto preparando, ci sentiamo, ok? Ciao Anto, piacere mi ha fatto ascoltarti, dai, un abbraccio grande. Saluta la signora e già ci aggiorniamo, dai, rimango in quel Rix e poi me ne vado a mangiare. Ciao. Ciao, ciao, cara. Ciao Anto. Ciao Gianfra, dai, ti lascio che ti ero già chiamato per andare a pappare. Così, sono andato a posto qua in cameretta. Servo delle scatole nella stanza del Carrillo, nel magazzino, che ancora non avevo svoltato. Stasera mi sono messo, me le ho tutte svoltate, messe le cassetti, roba di radio, i cavi, i cavetti, i connettori, i connettini, mamma mia, ero tutto in balle, che... Sì, ma insomma, facciamo tutte e due la stessa cosa sempre. Io stavo cercando due agganci USB, che avevo comprati tra l'altro, femmina, secondo te li ho trovati, infatti adesso secondo te così butto via un po' di cavi, buoni o non buoni, perché non ce ne capisco più, troppo casino. Sì, perché poi alla fine c'è tanta di quella roba che non viene bene a dirlo, cazzo, mamma mia. E c'è una scatola grande, grande, abbastanza grande, piena di cavi, cavetti, connettori, spezzoni, ciabatte, ciabattine, strumenti, un sacco di roba, l'ho presa, l'ho svuotata, perché è meglio non lasciare le scatole di cartone lì, sia che entrano i topolini, quelli di campagna, si fanno il nido ed è un casino, e allora no, non me lascio di niente, capito? C'è la lavatrice, il frigo, la caldaia, degli armadi chiusi e basta, e quindi ho dovuto toglierla, se no è un casino. Infatti, se poi quando le cerchi le cose che ti servono le trovi, quindi è come non averle, no? Sempre la stessa storia. Qua fortunatamente di topi non se ne vedono, perché ogni tanto arriva qualche gatto se te lo vuole regalare, magari per cucinarglielo, non so, metterlo a forno. Però sono piccolini e loro di lì prima si giocano finché non lo fanno secco e poi te lo portano come regalo. Anche questi sono piccolini di campagna, però se entrano dentro il magazzino, io ho una stanza grande che è limita al magazzino, quante ne mette, poi vediamo se la finisco, cosa devo fare eccetera, come ripostiglio. E quando sono arrivato ho appoggiato tutto lì, scatole di cartone, di plastica, di tutto, piene di roba, e ancora come te l'ho posto, e non è che già ce n'è, però oggi mi sono dedicato a queste scatole inerenti al mio hobby. Poi gli altri già se le mette a posto mia moglie, capito? Va bene, dai, ti saluto e vado a pappare. Ok Gianfra, un abbraccio, se entra Roberto salutamelo, io vado a mangiare e ho fame, al limite se ci siete ci aggiorniamo dopo. Ok, alle prossime, dai, buona cena. Fatti sentire ogni tanto per una piccola chiacchierata, ma già non fa male. Sì, vabbè, dipende sempre da chi c'è. Lo sai, no? Ne abbiamo già discusso, se c'è gente in gamba, io due chiacchiere me le faccio, ma se sento gente che non mi interessa, preferisco rimanere in ascolto, addirittura spegnere anche la radio, secondo chi è, quindi. Ok, oggi non ho sentito manco Giulio, insomma, magari due chiacchiere me le avrei fatte con Giulio, e anche Roberto, sito solo a te, Antonio e a Lucariello. Va bene, dai, che qua già iniziano a parlare, a fare, non capisco un cazzo. Ciao, ci sentiamo. Ok, no, neanche io li ho sentiti. Speriamo che sia tutto a posto. Alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Gianfranco, alle prossime. Hola. Sì, Roberto. Ciao, Gianfranco. Adesso Claudio è andato via a cena. No, sono rientrato adesso, diciamo, prima sono salito un attimino da Claudio da Muros, che gli devo dare quel microfono di con l'SB, ci ho mangiato una pizza veloce con mia figlia, mio genero, e poi ci accendo la radio se c'è qualcuno. Sì, infatti adesso se ti sentivo di salutarti. È andato a cena tutto lì, c'era anche Antonio, anche lui è andato a cena e poi nient'altro a segnalare. Stavo guardando una cosa, non sapevo che si potesse trasmettere in digitale nella 27, cioè trasmettere tipo utilizzando una banda molto ristretta in digitale, cioè ti scrivi tipo il codice Morse però utilizzi e fai collegamento a lunga distanza. Me l'ha fatto vedere Claudio, veramente interessante, usando un'interfaccia con qualunque tipo di apparato. Perché io oramai da qualche settimana, cosa ti sto dicendo, ti ho detto che c'è già tutto, non devi neanche spendere soldi, ti serve qualche pezzetto di cavo, lo spinotto di dietro e basta, è un computer chiaramente. Ma tu scusa un attimino, tu puoi ricevere o puoi anche trasmettere? Io ricevo e trasmetto ovviamente, caspita, se no cosa, ti faccio un esempio per tutti, il PSK come pensi che si trasmetta? L'FT8, anche se mi è antipatico, come pensi che si trasmetta? Gli apparati mica ce l'hanno, gli apparati ce lo possono avere solo il CV semiautomatico e alcuni l'RTT, lo puoi programmare, ma ci vuole sempre con più, comunque alla fine se c'è molti sistemi, capito? Quindi un PC ce lo devi avere di stazione, è indispensabile. No, no, non mi sono spiegato. Tu probabilmente lo usi in banda radioamatoriale, io parlo in 27, non sapevo che qualcuno l'avesse fatto anche per la 27 il sistema. Ma cosa? No, dunque, stai facendo un po' di confusione, scusa un attimo. Un apparato è un apparato. E quando tu ti attacchi a un ingresso audio, che deve essere il più pulito possibile, pulito nel senso che non dovrà avere in mezzo alle scatole condensatori, modulatori strani e queste belle cose, è per quello che si usa la parte posteriore degli apparati amatoriali. Poi può andare dappertutto, capito? Sposare in banda navale, se sei in nave, sposare in 27. In 27 c'è la rete packet enorme, di tutto quello di cui ti ho parlato. E come ci vanno? Se guardi le foto, ci sono dei semplici baracchini anche adattati, mi sa. Sì, no, sapevo funzionava PSK 31, però su bande di amatoriale lo utilizzavano, ma qua in 27 non avevo mai visto nessuno. E lui è iscritto a questa associazione di Marsala e parlano in diretta con questo sistema digitale via computer. Infatti non pensavo ci fosse qualcuno lo utilizzasse, la domanda mia era solo quella. No, ci sono. Di norma sono sempre i soliti tedeschi che sono molto attivi in questo campo, anche un 27 olandesi e così via, capito? Quelli sempre il carro parcato siamo noi. Sì, no, su altre bande di frequenza sì, l'avevo visto, lo utilizzano, anzi adesso sta andando l'FT8 col sistema nuovo, sta andando un sacco di gente, anche se qualcuno non piace, però qua il 27 per me è stata una novità. No, non sai quanti anni fa lo usavamo il packet, il 27, lui sotto nei canali di sotto eravamo. Sì, anche le immagini trasmettevano le TTY di coso di sistema, io ce l'ho l'apparecchio per fare tutta quella roba lì, me l'ha dato un radioamatore, ce l'ho tutto da parte. C'erano tutto il mondo collegavamo, polacchi, gli avvenni a poco di ieri, spagnoli. Ehi, allora già fa. Mi ha lì noi, ogni tanto c'è fuori, dalla Tana. E a voi, che ce n'è? No, l'FT8 è proprio antipatico, per il semplice motivo che praticamente fa tutto lui, tutto, puoi andare, premi il pulsante, lo lasci stare, ti innandi, poi torni a casa e c'è tanti di ex fatti, che senso ha? Ma una domanda, se tu sei pratico, questo sistema che lui mi ha fatto vedere digitale, che trasmette in 27, puoi solo trasmettere dati, voce no? No, volendo anche voce, ci sono anche programmi per la voce, poi dipende dal codec che usi anche lì, è vietato credo utilizzare, perlomeno su un programma è vietato utilizzare un codec, che è il MELP, che ha uso esclusivo militare, però ci sono i programmi, c'è anche un oggetto che si attacca al microfono, se non sbaglio alla presa microfonica, che lo fabbrica, quello lì è un oggetto fabbricato, è un certo standard, l'MFG se non ricordo male, trasmette e riceve direttamente in digitale. Ma una domanda, tu utilizzi quindi l'uscita audio dell'apparecchio, diciamo nel 44, diciamo la presa CC2, quella che c'è dietro con 8 poli, adesso mi ricordo quanti ne ha, o utilizzi il cavo di segnale via antenna? No, dunque bisogna, mettiamo un po' d'ordine, allora, la radio innanzitutto deve avere quella famosa uscita che ti ho detto, che è l'uscita, è un modem in parole povere, di lì lo colleghi con eventuale separatore per non avere disturbi al computer. Dopodiché ci sono tanti, ma tanti programmi per fare tutto quello che vuoi. Una volta che tu hai quel collegamento lì, chiamiamolo di interfaccia, che poi ormai l'interfaccia su molti non c'è neanche bisogno perché sono direttamente in USB, tu sei a posto, capito? C'è già cosa per trasmettere e ricevere. Sì, ma tu mi stai dicendo utilizzi l'uscita audio dell'apparecchio. Quella che ho visto io oggi era uscita audio, questa utilizzava tramite un'interfaccia che interponeva tra l'uscita del trasmettitore, metteva questa interfaccia, nel trasmettitore parliamo di frequenza, c'era questa interfaccia e poi l'interfaccia attaccata all'antenna e poi c'era l'uscita di questa interfaccia, andava al computer, utilizzava direttamente la radiofrequenza, non l'uscita audio. No, in che senso usare la radiofrequenza? La radiofrequenza in ogni caso c'è sempre in trasmissione, ma dal computer al coso lì, al, come si chiama, al trasmettitore, al ricetrasmettitore, a quello che c'è un carretto, al massimo ci può mettere un bluetooth se ce l'ha la radio. No, ma questa qua l'ha fatto con un baracchino, un semplice baracchino, senza nessuna uscita particolare. Scusa Natalia, allora tu devi sapere una cosa, il problema del baracchino per fare questi lavori è uno solo, però risolvibile. Il problema del baracchino è praticamente che se utilizzi la presa microfonica per la larghezza di banda va bene in CV, va bene in RTT, va bene in anche forse in PSK eccetera, quindi nei modi tradizionali, inizia a prendere colpi quando tu superi la velocità di 1200 baud, allora inizia a prendere colpi. Un altro problema può essere il fatto che sono presenti, e tu dovresti sapere, molti condensatori che per loro natura sul modulatore cosa fanno? Si variano le tonalità, e siccome lì stiamo parlando di toni praticamente, se ti arriva una cosa con un tono diciamo messo male, decifri male ovviamente, tutto lì è il problema. Quindi cosa si fa? Si scavalca il modulatore praticamente, in parole povere, così come si tende a scavalcare l'amplificatore audio in ricezione, perché anche lì è lo stesso discorso, non puoi collegarti anche con una resistenza, con quello che ti pare, all'altoparlante, perché ricevi male. Quindi in quel caso lì si scavalca l'amplificatore, si va proprio all'uscita MF che è pulitissima e quindi non ci sono disturbi, ti permette di andare anche a 9.6 quella in packet. Se c'è invece, o solo puoi utilizzare, se c'è un apparato HF, puoi utilizzare l'uscita core key del tasto telegrafico. Sì, quello è solo per trasmettere in telegrafia, però c'è un adattatore e ti fa quel lavoro, ma quello è solo per la telegrafia, ma è relativo quello. No, pensavo che con l'uscita l'avresti potuto. Comunque, con un apparecchio HF, perché hanno l'uscita normale ACC2 o ACC1, lì c'è un'uscita stabile, tipo un'uscita RCA, diciamo, di una piazza di registrazione di un lettore CD, che c'ha stabile quella tensione di uscita, attenzione, chiamiamola, quel segnale stabile come 200 millivolt, hanno di uscita stabile, standardizzata, tutte le piazze, tutti i lettori CD, eccetera eccetera, hanno quell'uscita stabile a 200 millivolt, tu utilizzi quello lì e lo attacchi a questa interfaccia ad attaccare al computer, così mi dici? Sì, ripeto, negli apparati moderni oramai anche l'interfaccia non si usa più, perché c'è l'USB direttamente, e l'USB va collegato al computer e fa tutto il computer. In quelli diciamo un po' più adattati ci metti un'interfaccina che magari c'è qualche resistenza di lì per attenuare il segnale, se proprio vuoi qualche trimmer, ma sono praticamente, non conosce niente lì, capito? Se è un apparato recente intendo negli anni in cui c'era già la CC posteriore per i collegamenti, ma non proprio l'unica cosa, vedi, è di lì c'è un enorme vantaggio per il TS2000, se devi ascoltare le radio broadcasting digitali, c'è il coso lì, il TS2000, che c'è l'uscita direttamente a 12 kHz, che è la banda, che è la frequenza praticamente delle schede audio, quindi non devi fare conversione a niente. Siccome quella lì è molto, come si dice, suscettibile quel tipo di emissione, quindi ti devi collegare proprio alla media frequenza del TS2000 con condensatore ceramico, e dopodiché lo usci come ingresso audio per la scheda del computer. E con il suo programma, che ce l'ho qua, non mi ricordo come si chiama, decifri la radio broadcasting in una maniera che rimane a bocca aperta, praticamente anche meglio dell'FM. Ok, vediamo Natalino. Natalino, sarò tanto. Mentre quell'uscita che c'ha il TS2000 VGA, quella lì non serviva niente per fare questo discorso. È uscita che c'ha 2000 VGA, VGA è uno standard televisivo. Non ho capito. Ho detto VGA, ho capito male io o ti sei espresso male tu? VGA è uno standard televisivo. Sì, ma c'aveva anche le uscite audio quello lì, non è così, l'uscita quella a 9 pulli, quasi sono 8 piedini. No, stai facendo.